Luna di primavera chiuse le tende della portantina. Solo un attimo fa aveva cercato con tutta se stessa di intravedere la sua città natale e ora stranamente non contava più granché. Lao Tse insegnava che più si viaggia, meno si conosce, e così sembrò anche a lei dopo l'incontro con talento coraggioso suo zio. I suoi pensieri tornarono a lui. Le donne sarebbero state altrettanto felici di vederla. Mai, per quanto potesse ricordare, nessuna donna, nemmeno una schiava, era stata rimandata a casa dalla suocera. E ora stava capitando a lei, vedova e con una bambina. Improvvisamente la portantina si fermò, aprì le tende e vide per la prima volta il cancello del suo Lao Chia. Lo riconobbe dai leoni dipinti anche sui piatti di porcellana riservati alle grandi occasioni. In un attimo la portantina oltrepassò i muri degli spiriti per entrare nel cortile delle udienze. Secondo il piano accuratamente predisposto, prima di lasciare Pechino, Ciccia pagò i portatori e corse avanti per preparare le donne alla sorpresa del loro ritorno, mentre Luna di primavera aspettava tenendo per mano la figlia. Intercettando il suo sguardo, il guardiano, troppo giovane per conoscerla, si inchinò di nuovo, cortesemente. Vicino all'ingresso del grande cortile, un vecchio se ne stava seduto su uno sgabello a sonnecchiare. Aveva il volto nascosto fra le braccia e una gabbia di uccelli posata sul grembo. Sempre tenendo Giada Lucente per mano, Luna di primavera si diresse subito verso di lui. Che il vecchio giardiniere fosse sopravvissuto a tutti questi inverni della sua vita? Mentre gli si avvicinavano, Giada Lucente chiese a voce alta: «Canta il tuo uccello!» L'uomo si mosse ma non sollevò la testa. Prima che la madre potesse frenarla, la bambina diede un colpetto sulla gabbia. «Canta, uccello, perché non canti?» Ora, senza più incertezze, Luna di primavera parlò. «Vecchio giardiniere, sono io, la figlia del secondo figlio del venerabile!» A quelle parole egli alzò gli occhi, sbattendo lentamente le palpebre, e quando vide Giada Lucente sorrise. «Dove sei stata, giovane padrona? La tua schiava ti ha cercata dappertutto!» Giada Lucente scrutava gli occhi dell'uomo come per scoprire se fosse cieco. «Che cosa dici? Io sono Giada Lucente, non sono mai stata qui e non ho una schiava!» «Lo so!» Si voltò lentamente verso Luna di primavera. «Conosco tutti i membri di questa illustre famiglia da 5 generazioni!» «Sembra più un bambino che un vecchio», pensò Luna di primavera. E si piegò verso di lui. «Sono veramente felice di rivederti, vecchio servitore!» Pensavi che fossi già al di là delle sorgenti gialle, vero? Ebbene, non è così. Mise la gabbia accanto a sé, poi si appoggiò al muro e lentamente si tirò in piedi, raddrizzandosi, per quanto glielo consentissero gli anni, e si inchinò. Benvenuta a casa, giovane padrona. Grazie, è davvero bello essere di nuovo qui. Non poté aggiungere altro perché Ciccia apparve al cancello della bottiglia e chiamò con un cenno Luna di primavera. Quando l'ebbe raggiunta, la vecchia sussurrò: «Ho spiegato tutto, ti stanno aspettando!» Tenendo per mano la bambina, la serva la precedette lungo un sentiero che la padrona non conosceva fino al muro di marmo traforato. Sull'altro lato, Luna di primavera si fermò. Il giardino del cipresso era così, come l'aveva visto il giorno in cui si era affacciata al cancello del trifoglio, vestita di rosa per la sua festa di fanciulla. Nulla era cambiato se non, forse, per diventare più bello. I crisantemi del vecchio giardiniere erano di diverse varietà, il vecchissimo albero di melograno più nodoso, i bambù ancor più lussureggianti. Cosa diceva la poesia di Yuan Mei, la prima che avesse recitato per talento coraggioso? Ho sognato a lungo di costruire una barca che sfiorasse l'acqua rapida come un uccello, senza portar via le persone dagli amici, ma solo per riportarle a casa. Quando ebbe attraversato il ponte dell'andare e venire e le rosse colonne della sala delle virtù femminili si innalzarono davanti a lei, Luna di primavera si fermò ancora. «Kuan Yin, misericordiosa», pregò, «fa che possa tornare a casa». «Forza!» mormorò la serva, «ti stanno aspettando!» Seguita da Ciccia e Giada Lucente, Luna di primavera varcò la soglia della casa. Tutte le donne del clan erano riunite, ciascuna al suo posto. Nessuna si mosse. Lei non sapeva che fare perché Non esisteva nessuna tradizione che potesse guidarla e i loro volti erano indecifrabili. Come se fossero i suoi occhi a comandarglielo, lei le guardò a una, le prozie, le zie e le serve. Naturalmente non c'erano più le cugine della sua età, al loro posto le giovani mogli degli scapoli che le avevano cantato la serenata. Verso il centro della stanza, secondo il loro rango, stavano una gentildonna non molto più vecchia di lei, che doveva essere Virtù Splendente, Alba Luminosa, la terza moglie del venerabile, e Neve Fragrante, la vedova del suo secondo figlio in seta viola con ricami di narcisi. Infine, esitando, il suo sguardo si mosse verso quella che sedeva, discosta da tutte, all'esatto centro della sala. La sedia era nuova, le sembrava più imponente di quanto ricordasse. Avanzò lentamente, poi si fermò e attese, abbassando gli occhi. Nipote mia, cuore mio, sei a casa? Luna di primavera alzò gli occhi. La matriarca sorrideva. Oh, nonna! Luna di primavera cadde in ginocchio e fece cutù. Carne della mia carne, lascia che ti abbracci. Era Neve Fragrante, e di nuovo Luna di primavera fece cutù. Sua madre l'aiutò ad alzarsi e la tenne stretta. Entrambe erano accecate dalle lacrime, mentre parenti e serve premevano intorno singhiozzando, cercando di dire le appropriate parole di benvenuto e facendo complimenti alla bambina. Quando l'agitazione si fu placata, la matriarca prese Luna di Primavera per mano. Nipote, ora devi rendere omaggio alla moglie del patriarca. L'atteggiamento di Virtù Splendente era talmente riservato che sembrava starsene nell'ombra, ma il suo sorriso era caldo. Luna di Primavera cadde subito in ginocchio. Prima che la sua fronte toccasse il pavimento, la giovane donna parlò con parole gentili, appena sfumate dall'accento del sud. No, no, non devi, non merito tale onore. Ti prego, cara nipote, alzati. Improvvisamente Ciccia si soffiò il naso con un suono di trombone e le risate invasero la sala. Sono a casa, pensò Luna di Primavera. Più tardi, dopo il tè, Giada Lucente fu presentata agli altri bambini. La nostra scuola è l'invidia di tutta Sciucciao, si vantò la matriarca. Ogni giorno devo respingere amici che mi supplicano di accettare i loro figli e le loro figlie. Davvero? Chiese Luna di Primavera. La nostra scuola è aperta anche alle bambine? La matriarca inspirò dal naso. Naturalmente, la nostra è una famiglia illuminata. Luna di Primavera sorrise tra sé. Lo zio anziano aveva avuto ragione, era stata soltanto una questione di tempo. Gli allievi stavano schierati col loro insegnante nel giardino del cipresso, pronti a essere presentati secondo il loro rango. Prima il tutore, un giovane al quale gli occhiali rotondi conferivano un'espressione attonita, poi i ragazzi. Ciascuno si inchinò a turno, dai due figli del patriarca fino ai pronipoti dei fratelli del venerabile. E a 20 d'agosto, il figlio orfano di un povero parente lontano. Era più paffuto degli altri e sembrava che masticasse qualcosa. La matriarca gli lanciò un'occhiataccia, ma lui finse di non accorgersene e scrutò apertamente i grossi piedi di Giada Lucente mentre le bambine si presentavano. Anche loro notarono i piedi e ridacchiarono timidamente, nascondendosi la bocca dietro le mani. Giada Lucente, rapida come sempre, tirò sulla gonna e mise in mostra una scarpa per accontentarle. La matriarca tossì e subito ci fu silenzio. Le bambine si inchinarono tutte insieme e si diressero rapide verso i cortili interni. Anche i ragazzi si inchinarono e si ritirarono dietro il muro di marmo traforato, guidati da Vista Gloriosa, figlio maggiore del patriarca. Il tipo grassottello chiudeva la fila. Giada Lucente fece per seguirlo, ma Luna di Primavera la prese per mano. Figlia mia, qui a Sciucciao imparerai molte cose nuove. La prima è che non puoi andare ovunque. E tu non puoi andare nei cortili esterni, di conseguenza resterai qui con le donne, tranne che per la scuola non devi mai superare quel muro di marmo. Ma perché? Questa è la tradizione. Non mi piace la tradizione. Non devi dirlo più, figlia mia, è proibito. Alcune settimane dopo il ritorno di Luna di Primavera, il primo giorno della quindicina del grande freddo, Talento coraggioso stava seduto alla sua scrivania nello studio Ming, lavorando all'abaco, scribacchiando dei numeri su un foglio. Come era successo il giorno prima e il giorno prima di quello, le varie colonne lo sfidavano come lo schieramento di carte di un solitario. All'imminente riunione del clan avrebbe dovuto presentare il resoconto di fine d'anno ed era impossibile nascondere i disavanzi. Che cosa poteva dire? Che non era colpa sua, che tutta la Cina aveva sofferto, innegabile naturalmente, ma erano i soldi che lui aveva investito nelle fonderie e nelle fabbriche tessili che erano andati perduti. E benché sperasse ancora che in futuro questi fondi, spesi per promuovere la modernizzazione della Cina, avrebbero recato beneficio anche al clan, ora temeva che il clan non riuscisse a trovare abbastanza forza per sopravvivere alle difficoltà immediate e godere di eventuali benefici a lungo termine. Per anni aveva messo a tacere la propria coscienza, pensando che il maggior contributo al tesoro del clan, da quando lui era diventato patriarca, era stata la dote di sua moglie. Ora che quella era finita, non c'era nulla con cui rimpiazzarla. Più di tutto lo preoccupavano le somme che dava a Talento Nobile. Le richieste del giovane fratello si facevano sempre più frequenti, urgenti e sempre più cospicue. Eppure nessuno doveva sospettare che il tesoro dei Chang finanziasse i rivoluzionari, non importa cosa la gente pensasse dell'attività di Talento Nobile nel Sud. Talento Coraggioso tornò all'abaco, dividendo questi contributi e riportando i risultati in fondo alle colonne che rappresentavano le spese dei 7 rami della famiglia Chang. Poi il foglio sul quale scriveva era ridicolo. Nessuno avrebbe prestato fede ai suoi calcoli. Eppure, 2 anni prima gli era sembrato che non ci fosse alternativa. La via della riforma è fallita, fratello, aveva detto allora Talento Nobile. È finita con la vedova e l'imperatore. Perché mai? Pensò Talento Coraggioso, amareggiato. La vecchia concubina aveva aspettato che i pugni di giustizia e di concordia devastassero il paese prima di vedere la luce. E perché, dopo averla vista, non era vissuta abbastanza da mettere in atto quelle riforme tardive? Devi ammettere, aveva detto Talento Nobile, devi ammettere che il nuovo reggente è un asino con gli occhi al posto della coda. Era vero. Nemmeno la vedova era stata tanto inetta. Di quali altre prove hai bisogno dopo che hai cacciato via Yun Shikai? La voce di Talento Nobile si era fatta concitata. Progetta di mettere dei Manciù al posto di tutti i funzionari cinesi. Quanti Manciù hanno i requisiti per governare? Rispondi. Beh, non molti. Una dozzina. La sua risposta era suonata priva di entusiasmo. Fratello maggiore, tu hai avuto pazienza per 16 anni. Ora questa non sarebbe una mossa avventata. Nonostante un imperatore bambino, un reggente ignorante, guarnigioni logore, funzionari corrotti, la stagnazione, le carestie, i banditi e le enclave straniere, 4 milioni di Manciù regnano ancora su 400 milioni di Han. Non c'è nessuna alternativa al di fuori della rivoluzione. Tu devi unirti a noi. E lui aveva consentito. Ora non sapeva più quanti tael d'argento avesse speso. Si alzò bruscamente, spingendo da parte le carte. Che senso aveva tutto ciò? Non c'era stata nessuna rivoluzione, solo un mucchio di chiacchiere, qualche sabotaggio, l'assassinio di un funzionario manciù sulla strada per Canton. Ma non erano scaturite riforme, solo oppressione, censura e tasse più elevate da versare per la milizia locale e le truppe imperiali. Si diresse lentamente verso la sua scrivania. Di solito provava un senso di magia nell'afferrare il pennello, spandere l'inchiostro, tracciare i caratteri, ogni ricciolo, linea e trattino, eseguiti correttamente, rivelavano la bellezza dell'equilibrio, il potere dello squilibrio, la misura nella libertà e la libertà nella misura. Quando veniva colta l'essenza di un carattere, si fondevano idea, simbolo e suono. Si realizzava l'armonia dei contrari di Yin e Yang. Non c'erano contraddizioni e regnava l'intuito. Quella sera tutto ciò gli sfuggiva. Ripose il pennello e attraversò il cortile e l'alloggio del patriarca fino alla stanza di sua moglie. Da quando l'una di primavera era tornata, aveva sperato di ritrovarsela davanti, ma non era successo. Trovò invece Virtù splendente. Sei venuto presto, disse lei. Sono troppo stanco per lavorare. Prenderai il tè con me nella sala di ricevimento? Lei chinò il capo e mise da parte il cucito. E chiedi a Luna di Primavera di raggiungerci. 14. La buona moglie. Lui mi gettò una cotogna, io gli diedi un pendente di giada. No, non solo per contraccambiarlo, ma per far durare il nostro amore. Lui mi gettò una pesca, io gli diedi uno smeraldo. No, non solo per contraccambiarlo, ma per far resistere il nostro amore. Lui mi gettò una prugna, io gli diedi una giada nera. No, non solo per contraccambiarlo, ma per tener fede al nostro amore. Dai il libro dei canti. Virtù splendente sollevò il coperchio della teiera di porcellana per vedere se il tè era pronto. Era tè della fonte del drago, noto per il suo delicato aroma. Alcune foglie ancora galleggiavano sull'acqua bollente. Guardò di nuovo Talento coraggioso. I suoi occhi seguivano Luna di Primavera che vagava da una libreria all'altra, prendendo ogni tanto un libro per sfogliarlo. Virtù splendente abbassò rapidamente lo sguardo, non volendo intromettersi. Poi anche lei osservò Luna di Primavera. Pur non avendo studiato le belle arti, capiva che era bellissima. Nessuno notava se il suo abito era nuovo o se si era data il belletto alle guance. Di lei si notavano soltanto gli occhi scintillanti e la risata contagiosa, la vivacità anche quando era immobile, e dal suo ritorno i cortili erano sembrati assai più gioiosi. Virtù splendente versò il tè nelle tazze e porse la prima con entrambe le mani a Talento coraggioso. Marito mio, grazie, moglie mia. Prese la seconda tazza per offrirla a Luna di Primavera che stava ancora guardando i libri. Le bruciavano le mani e infine disse: Vieni nipote, siediti a bere il tè prima che si raffreddi. Luna di Primavera sobbalzò e rimise subito al suo posto un grosso volume rilegato in cuoio. Oh, perdonate, zia anziana, mi sono distratta, ci sono tanti libri nuovi. Prese la sua tazza e sedette: Zio anziano, posso averne qualcuno in prestito? Tutti quelli che vuoi. La tua presenza qui sarà sempre gradita, non è vero, moglie mia? Virtù splendente annuì, offrendo a ciascuno attorno un assortimento di dolci, di noci, mandorle o sesamo. Ho già fatto una prima scelta, la nuova traduzione di Le due città di Lin Shu. Certo, ma perché leggere la traduzione? Felice Promessa mi scrisse che stavi imparando l'inglese. Dovresti leggere l'originale, non le storie di Lin. Non conosce le lingue straniere e così deve scrivere le sue versioni cinesi seguendo resoconti orali. Può darsi anche che raggiunga dei buoni risultati, ma non sono le opere di Charles Dickens. Improvvisamente Luna di Primavera scoppiò a ridere. Oh, zio anziano, parlate come se foste ancora il mio insegnante. Rise anche lui, ribadendo che quel che aveva detto era comunque vero. Certo, avete ragione, zio. Luna di Primavera sorseggiava il suo tè, ma a Pechino non ho potuto mai studiare come a Shuqiao. Inoltre sono anni che non leggo l'inglese. Con quale disinvoltura parlano insieme, pensò la moglie, offrendo di nuovo il vassoio dei dolci, come se fossero amici d'infanzia. Talento coraggioso scosse il capo. Non importa, nipote, annota quel che non capisci e ne discuteremo insieme. Oh, perdereste molte ore, zio. No, no, affatto, non devi dimenticare il tuo inglese. Luna di Primavera si rivolse a Virtù splendente. Non vi dispiace, zia? Avrò tante domande da fare. Virtù splendente annuì sorridendo. Mio marito sarà felice di parlare dei suoi libri con te. D'impulso, Luna di Primavera si protese verso l'altra donna prendendole una mano. Come posso ringraziarvi, zia? Ho avuto ben poco da fare da quando sono tornata, oltre ad andare di tanto in tanto al convento a pregare per mio marito. Mia figlia non ha più bisogno delle mie lezioni e voi dirigete talmente bene la casa che noi non dobbiamo muovere un dito. Virtù splendente abbassò gli occhi con modestia. Dovrò fargli i complimenti anch'io, si domandò. Talento coraggioso ruppe il silenzio. Dimmi, nipote, quali sono gli scrittori inglesi che già conosci? Mentre parlavano dei misteri che esistevano solo nei libri stranieri, Virtù Splendente mangiava un dolce alla mandorla. Non aveva nulla da dire. Appena era arrivata, Talento Coraggioso aveva cercato di insegnarle a leggere, ma i ragazzi memorizzavano più caratteri in un giorno di quanto riuscisse ad assimilare lei in settimane. La testa le scoppiava come un petardo ogni volta che suo marito la metteva alla prova. Lui non aveva mai detto una parola scortese, ma dopo un po' aveva smesso di seguirla. Lei aveva provato un tale sollievo. Ora invece pensava, se soltanto avesse insistito. Improvvisamente Talento Coraggioso e Luna di Primavera scoppiarono a ridere. La moglie l'imitò. Loro smisero e lei rideva ancora. Ci fu un momento di imbarazzo. Forse, si domandò Virtù Splendente, suo marito si aspettava che parlasse. Si sentiva la gola secca, non poteva affrontare il suo sguardo. Luna di Primavera le sfiorò di nuovo la mano. Zia, questi dolci sono deliziosi. Dovete spiegarmi come sono fatti. Grata, Virtù Splendente, si rivolse a lei. Certo, prima devi scegliere la migliore farina di riso, poi. Talento Coraggioso tossì. Moglie mia, non è così facile spiegare i segreti della tua arte. Posso suggerirti di invitare la nostra nipote in cucina la prossima volta che farai i dolci? La sua voce era gentile, ma le parole erano come il vino nuovo. Naturalmente aveva ragione lui, le ricette dei dolci sicuramente non lo interessavano. Chinò il capo. Marito mio, tu onori i miei modesti sforzi. Faticò a pronunciare le parole, ma certo inviterò nostra nipote a vedere com'è ridicolmente facile fare dei dolci. Ve ne sarò immensamente grata. Luna di Primavera ne prese un altro. Per ritornare al nostro discorso, nipote. Virtù Splendente lo osservava. Aveva sorseggiato soltanto del tè, ma si comportava come se avesse bevuto del vino. Tanto era animato. Gesticolando con foga mentre parlava, spesso completando un pensiero al posto di Luna di Primavera. Con sua moglie era sempre corretto, sempre premuroso e distante come lo è un sogno al risveglio. Ma dal momento in cui le aveva sollevato il velo nuziale, lei lo aveva adorato. E talvolta ancora si svegliava con un senso di gelo nel cuore, nel timore che non fosse mai successo. La sua era una modesta famiglia di mercanti, la cui improvvisa ricchezza derivava dal conio delle monete e le cui tombe ancestrali coprivano soltanto due generazioni. Non aveva nessun diritto di chiamare marito quell'uomo erudito, di essere la moglie del patriarca di una famiglia tanto illustre. Eppure lui non aveva mai pronunciato una parola scortese verso di lei e l'aveva trattata col massimo rispetto. Altrettanto aveva fatto il clan. Nessuno aveva mai riso alle sue spalle. Lui non l'avrebbe sopportato e lei gliene era grata. E gli dèi erano stati generosi. Vista Gloriosa era nato il primo anno, Vista Brillante 2 anni dopo e lei era miracolosamente sopravvissuta al parto della bambina nata morta 2 anni dopo. Quando si era ripresa, lui le aveva fatto visita dicendo: Moglie mia, la tua vita è troppo preziosa per me. Tu mi hai già dato 2 robusti figli ed è saggio non tentare il destino. Metterò il mio letto nell'alcova dello studio Ming e tu non dovrai più temere. Naturalmente lei gli aveva chiesto di prendere una concubina, ma lui le aveva sorriso con dolcezza dicendo: L'unica moglie di cui ho bisogno è la madre dei miei figli. Lei serviva la suocera, lo aiutava a risolvere i problemi e le liti della famiglia, era sempre disponibile quando qualcuno aveva bisogno di lei, cucinava i suoi piatti preferiti, gli curava i raffreddori, risparmiava il suo denaro, allevava i suoi figli, adorava i suoi antenati. Imparò a controllare i desideri che non poteva padroneggiare o capire, poiché erano tanto fuori luogo fra un uomo e la madre dei suoi figli. Lei non era infelice e lui non sembrava scontento. Fino ad ora. Il suo cuore dolorava per tutti e tre, la vedova ancora inconsapevole, il marito che non poteva dimenticare, la moglie virtuosa. Dopo che Luna di Primavera se ne fu andata, Virtù Splendente chiese al marito il permesso di invitare ancora la nipote a prendere il tè con loro. 15. Capodanno. Gli antichi che desideravano dar prova di grandi virtù in tutto l'impero, prima mettevano ordine nelle proprie faccende. Desiderando regolare bene le proprie faccende, prima mettevano ordine nelle proprie famiglie. Desiderando mettere ordine nelle proprie famiglie, prima coltivavano la propria persona. Desiderando coltivare la propria persona, prima correggevano il proprio cuore. Desiderando correggere il proprio cuore, prima cercavano di essere sinceri nei propri pensieri. Desiderando essere sinceri nei propri pensieri, prima estendevano al massimo la propria conoscenza. Per estendere la propria conoscenza, indagavano le cose. Avendo indagato le cose, la loro conoscenza diventava completa. Essendo la loro conoscenza completa, i loro desideri erano sinceri. Essendo i loro pensieri sinceri, i loro animi venivano emendati. Essendo emendati i loro animi, le loro persone erano elevate. Essendo elevate le loro persone, l'ordine regnava nelle loro famiglie. Regnando l'ordine nelle loro famiglie, le loro faccende erano correttamente governate. Essendo le loro faccende correttamente governate, tutto l'impero era felice e in pace. Da Confucio, il grande sapere. Alla vigilia dell'anno del cinghiale 1911, la neve caduta nel corso della notte aveva cambiato l'aspetto dei cortili e la terra nuda si era ricoperta di un bianco velluto. Il mattino seguente il sole, che per giorni aveva mandato una debole luce, risplendeva in un cielo color blu porcellana. I ghiaccioli scintillavano dalle grondaie, i tetti di tegole verdi, resi lucidi dal gelo, scintillavano come la giada più fine. Da settimane i cortili erano in fermento. Ciccia aveva sovrinteso alle grandi pulizie in vista dell'ispezione della matriarca. Non deve esserci un solo granello di polvere. La casa deve cominciare l'anno nuovo immacolata. Le donne del clan avevano preparato e confezionato i doni per gli amici, avevano selezionato, tagliato, mescolato, messo in infusione, contato e scatolato. Avevano fatto conserve di albicocche, mele, pere, datteri. Avevano messo sotto aceto cavoli, zenzero e radici di loto. Avevano affumicato prosciutti e carpe, cucinato dolci di riso e mandorle. Ora la casa era pronta e vi regnava un'atmosfera di eccitazione. Per tutto il giorno vennero visitatori a portare doni e lettere rosse per i bambini e i servi, e per tutto il giorno i portatori spazzarono via la neve dai sentieri del giardino. Al crepuscolo cadde un silenzio carico d'attesa. I lucignoli guizzavano nelle lanterne colorate lungo le verande e le lampade al cherosene, costruite dallo straniero, mandavano un bagliore lunare attraverso le finestre schermate dalla carta. L'una di primavera si fermò un istante sul ponte dell'andare e venire, osservando le luci danzare fra i ghiaccioli. La neve si vedeva raramente a Shuichao. Ricordava di averla vista in quei cortili una sola volta quando aveva 7 anni. I suoi cugini giocavano da un cortile all'altro disegnando pupazzi per terra. Come li aveva invidiati! Ma i suoi piedi, fasciati solo da un mese, le avevano doluto ancor più del suo animo di bambina. Ora non provava che piacere mentre il vento gentile dava il tocco finale a quel paesaggio in chiaroscuro. Dal giardino del cipresso, dove stavano raccogliendosi i membri del clan, veniva un coro sommesso di voci. Ma l'una di primavera indugiava, si domandava se la sua felicità fosse visibile come l'aria che esalava, e pensò che doveva essere così. Questa era la più bella di tutte le notti. I vecchi debiti venivano saldati e i nuovi dovevano ancora essere contrattati. Le trasgressioni venivano perdonate e le eccezioni erano la regola. Era così nella sua infanzia. Ed era così ora. Sorridendo, si affrettò a raggiungere gli altri. Tutti si erano fatti il bagno e avevano indossato abiti nuovi per la serata. Gli uomini portavano zucchetti neri e vestiti di seta dai colori sgargianti foderate di pelliccia. Le donne e i bambini giacchette di seta foderate di pelliccia e gonne rosse ricamate. Molte delle signore portavano intorno al capo bende di velluto ornate di perle e giade alle orecchie. Ciascuna portava uno scaldino di ottone pieno di tizzoni ardenti per scaldarsi le mani e i piedi gelati. Erano venuti tutti, cugini mandati come funzionari in province remote, parenti lontani che non avevano mai visto il loro Laokia. Persino Talento Nobile era tornato da Canton. Stava fra Alba Luminosa e la matriarca, attorniato dalle prozie e dalle loro schiave. Dall'espressione di sofferenza dipinta sul suo volto si capiva che nessun interrogatorio dei nani marrone poteva essere più pressante o imbarazzante.